L'amore è una cosa meravigliosa di Han Suyen. Aldo Martello Editore 1956, traduzione di Raffaella Lotteri. Prefazione. Aprile 1950. Scriverai un libro su di me? Mi chiese Mark. Era l'ora che segue l'amore. Eravamo sdraiati nell'erba alta della collina, nel sole caldo. Sopra di noi il cielo si stendeva ampio fino all'indifeso orizzonte, e tutt'intorno rocce, erba, felci e mirto. Ai piedi della collina il mare azzurro e increspato, tutto solo, senza nemmeno una vela, nell'eterno pomeriggio estivo. Parlavamo tranquillamente, distaccati da noi stessi, parole caute, ponderate. Parlavamo di cose che in quel momento non facevano più male. Lucidamente discutevamo sulla nostra separazione, sullo scindersi dei nostri mondi in frammenti più che mai irriconciliabili. Le nostre voci erano calme e immateriali, come possono esserlo soltanto nell'ora che segue l'amore. «Può darsi che scriva di te», risposi, «ma non ora. Ora sono troppo piena di gioia per poter far altro che vivere sempre cosciente della tua presenza dentro di me». Forse se mi lascerai, e io ne soffrirò, o per qualche altra buona ragione, scriverò un libro su di te. Beh, a quale altra buona ragione potresti avere? Chiese Mark. La fame. Venderei il mio amore per un po' di cibo, senza esitare. La scodella di riso rappresenta per me la ragione più valida di far qualcosa. Il cedere una parte della propria anima alle moltitudini in cambio di riso e vino non mi sembra un sacrilegio. Ah, se vuoi vendere la tua passione ancora rovente, amor mio, replicò Mark passandomi un dito lungo le sopracciglia, dovrai farlo prima di dimenticarmi, dato che detesti tanto l'odore imbalsamato dei ricordi. È appunto per questo che lo farò. Esumerò tutti i miei ricordi, poiché sono nata irriverente, e lo farò prima che l'amore per te si ritragga, come la marea, lasciando la spiaggia umida e cosparsa di relitti senza significato. Prima che il corpo spietato soffochi il male che mi hai fatto e falsifichi il sentimento delle parole che abbiamo usato, prima che debba scavare a fondo per far sanguinare le torpide cicatrici del dolore e dell'estasi. Racconterò come ci siamo amati nella maniera di tutti gli amanti, lottando per non permettere alle piccole cose della vita di distruggerci. Dirò come esse ebbero la meglio su di noi e come finimmo col dimenticare, poiché né più né meno di chiunque altro noi siamo amanti fugaci e imperfetti in un mondo di infinita incostanza. Oh, quanta retorica! Esclamò Mark. Credi dunque davvero che gli altri traggano dal loro corpo tutto il piacere e tutta la felicità che proviamo noi? Credi veramente che il nostro amore non durerà per sempre? Io no. E si guardò intorno, quasi a cercare una conferma, ma non c'era che mirto ed erba e felci, non c'era che colline e mare, non c'eravamo che noi due, dorati dal sole. Amor mio, anche il più brutto pancione del mondo crede di amare come noi, e per sempre. È l'illusione di tutti gli amanti quella di credersi uniti e di ritenere le loro parole immortali. Può darsi che si tratti di un'illusione, concluse Mark. Ma è la sola verità che tu ed io possediamo e dobbiamo quindi goderne finché è possibile, poiché, amor mio, potremmo avere solo poco tempo, ben poco tempo, per amarci. E quelle furono le sole parole vere che pronunciammo quel pomeriggio. Parte prima. Inizio. Capitolo 1. Esodo dalla Cina. Marzo 1949. Mrs. Parrish si aggiusta il nuovo vestito di seta intorno ai fianchi e la sua lingua schiocca contro i piccoli denti bianchi in segno di approvazione. Siete veramente dimagrita, non c'è dubbio, dice Mrs. Thrale, continuando a lavorare con zelo all'uncinetto. Grazie a voi, dottore, soggiunge e mi lancia un'occhiata. Mi siete stata inviata in risposta alle mie preghiere, Doc? dice Ellen Parrish, contorcendosi di fronte al grande specchio per esaminarsi da dietro. 3 settimane di regime hanno effettivamente ottenuto risultati meravigliosi. Suo marito, Half, ha lasciato la sua missione a Hankou e potrebbe arrivare a Hong Kong da un giorno all'altro. I comunisti accerchiano la zona da nord e da est. Ogni città si arrende loro senza opporre resistenza e intere armate depongono le armi al completo col loro generale. Hankou cadrà. Ellen Parrish non crede che Alf potrà rimanere a Hankou quando i comunisti occuperanno la scuola in cui insegna. Insieme con i bambini, ella si è trasferita a Hong Kong 6 mesi fa e il cibo abbondante e i gelati, uniti alla vita sedentaria, hanno aumentato la sua mole di ben 10 chili. Arrivando all'ostello religioso in febbraio, dopo aver completato i miei studi di medicina in Inghilterra, l'ho trovata in uno stato di tranquilla disperazione e per settimane ho vegliato sui suoi pasti, mettendole sotto al naso una lista di cibi proibiti. È un tale sollievo sapere che vi fermerete qui per un po', ella dice. Si è più tranquilli avendo un medico a portata di mano quando si hanno bambini. Mary Fairfield lavora a maglia. Le sue labbra pallide si muovono appena per contare i punti. Questa mattina, in risposta alle sue lunghe, fervide preghiere, Dio le ha fatto capire che deve ritornare in Cina coi bambini. Sarete liberati dai comunisti, dice Helen Parrish, e non credo che questo sarà un bene per voi e i bambini. Ma per Mary Fairfield, come per molti altri missionari, la Cina rappresenta il luogo prescelto per diffondere il verbo. In quest'ora di tenebre e di pericolo, la salvezza eterna deve più che mai essere accessibile a tutti. Mio padre e mia madre erano missionari in Cina. Io vi sono nata e vi ho passato la mia infanzia. I miei bambini sono nati in Cina. Non mi è possibile concepire la vita senza la Cina. Anche Mrs. Thrale, che non lavora a maglia, è triste, ma per altre ragioni. Ella è missionaria da poco. I Thrale erano appena arrivati dall'America e non avevano nemmeno finito di ammobiliare la loro casa quando la minaccia comunista li aveva fatti partire per Hong Kong. Avreste dovuto vedere le tende della nostra stanza da letto, chintz giallo con disegni di mughetti. Mi si spezza il cuore quando penso alla nostra casa e a tutta la mobilia nuova che fummo costretti a vendere. Sento che Dio ci farà ritornare un giorno. Mrs. Jones è inglese. Fa parte del gruppo che si riunisce a lavorare a maglia e a chiacchierare nella stanza di Helen Parrish, ma quando siamo tutte insieme parla pochissimo. Divisi la mia stanza con lei durante la mia prima settimana all'ostello e solevamo parlarci a bassa voce la notte, sdraiate l'una accanto all'altra nei nostri lettini di ferro. Fu prima che traslocassi al pian terreno. Harry ed io non siamo d'accordo sul fatto di lasciare la Cina, ella dice. Lui vorrebbe rimanere. Andandosene dovrà dare le dimissioni da missionario e cercarsi un impiego in Inghilterra, e dopo un'assenza tanto lunga non si sa nemmeno da che parte cominciare per ottenere un lavoro. Mrs. Jones ha paura, non c'è nulla di eroico in lei. Se Harry fosse medico, missionario, gli lascerebbero continuare il suo lavoro, ma appartiene alla setta evangelica. Stampa e distribuisce opuscoli religiosi, lo fermeranno certo prima di chiunque altro. Nel primo impulso di sottrarsi all'avanzata comunista, molte famiglie missionarie si sono rifugiate a Hong Kong. Ma una volta giunte qui, i loro timori svaniscono e desiderano tornare indietro. Pochi sono quelli che decidono di ritornare in America o in Inghilterra. I più sono missionari della seconda generazione, con una tradizione cinese in famiglia. Il verbo di Dio è stato diffuso dai loro genitori nella terra pagana della Cina. Perché dovrebbe quindi la buona terra ritornare ora ai pagani? In lunghi anni di fatiche non sono stati sufficienti a infondere una mentalità cristiana all'anima cinese? Amo la Cina, ho sempre amato il popolo cinese, dicono. Non riesco a capire come mai tanti passino nelle file dei comunisti anche fra i nostri migliori cristiani. Conoscevo questa gente quanto le mie tasche e sono sbalordito da quello che sta accadendo loro. L'ostello religioso, edificio giallo e rettangolare, con 2 file di finestre dalle persiane verdi che ne adornano la facciata, è situato di fronte ai giardini botanici sull'isola di Hong Kong. L'atrio con le sue sedie di canne, il divano bianco, le palme in vaso, il lucido pavimento scuro e le pareti color avorio è di una semplicità piuttosto dimessa, che cerca invano di dare all'ambiente un'atmosfera accogliente e familiare. Dal 1949 è sempre affollato di missionari giunti dalla Cina. Si tratta soprattutto di americani, ma vi è anche qualche inglese e qualche cinese. Ai non missionari non sarebbe permesso fermarsi più di una settimana. La pensione completa è di 16 dollari, che corrispondono a una sterlina inglese. L'ostello è fornito di impianti igienici moderni. Non c'è acqua calda corrente, ma due secchi di acqua calda al giorno sono a disposizione di ogni adulto. Nel periodo del mio soggiorno dormivano in media 5 persone per stanza. La direttrice è molto affaccendata, dice Helen Parrish, dopo aver lanciato un'occhiata fuori della porta della sua stanza. Il CAP, siccome è entrato da poco, è in porto. Ci saranno certo molti dei nostri a bordo. Chissà quante altre persone hanno intenzione di ficcare in ogni stanza. Non è giusto permettere ai non missionari di alloggiare qui. Dopotutto, questo è un ostello religioso. Non voglio alludere a voi, dottoressa, e comunque voi siete al pian terreno. Mentre si scambiano queste opinioni, che sto a sentire senza aprir bocca, la direttrice appare sulla soglia. Timida e gentile, ricorre alla pantomima per farsi capire. Per l'intera giornata i suoi lineamenti esprimono di volta in volta dolore, piacere, sorpresa, interesse, stupore e gioia. Passa con sorprendente facilità da un'espressione all'altra e sembra sfiorare il pavimento, le labbra sempre pronte a incurvarsi in un sorriso. Il tutto, sorriso compreso, sta ora sulla soglia della camera di Helen Parrish. Ma la prima espressione di beatitudine si muta improvvisamente in una smorfia di angoscia tale che Mary Fairfield, sorpresa, lascia cadere un punto del suo lavoro a maglia. «Cara, Mrs. Fairfield», sussurra la direttrice, «sono tanto spiacente di dover assolutamente mettere un bambino con la madre nella vostra stanza». Un delizioso bambino, tanto caro, soggiunge in tono insinuante mentre il suo volto si illumina di tenerezza al pensiero del delizioso bambino. La lotta fra carità cristiana e umana ripugnanza è chiaramente visibile sul volto di Mary Fairfield, mentre risponde: Certo, non mi sognerei mai di oppormi, tutti dobbiamo aiutarci a vicenda in questi momenti di affollamento, tuttavia. Susie e Claire hanno un tale raffreddore che mi domando se sia prudente metterle a contatto di un altro bambino, senza contare che mio marito potrebbe arrivare da un momento all'altro e che anche la piccolina non sta affatto bene, potrebbe essere morbillo, finora non ha fatto che la pertosse. Le ho già misurato la temperatura 4 volte oggi e mi chiedo se un bel clistere non potrebbe farle bene. È la cosa migliore per far scendere la febbre nei bambini, vero, dottoressa? Non mi dichiaro d'accordo. Mrs. Jones, Mrs. Thrale e Mrs. Parrish fingono di non vedere le supplichevoli contorsioni facciali della direttrice. Stiamo tutte pensando alla razione di acqua che diminuirà con l'arrivo di altra gente. Febbrilmente stiamo tutte domandandoci se sarà meglio alzarsi prima al mattino o dare una mancia al ragazzo. Hong Kong è sovraffollata, con 2 volte e mezzo la popolazione di un anno fa. E tutti i giorni ci sono nuovi arrivi, coi treni, con le navi, con l'aeroplano, a piedi, attraverso la linea di confine. È impossibile trovare una camera se non pagando cifre folli. Prima ancora di sentirne l'odore, bisogna pagare per averne la chiave, per avere il diritto di camminarvi, di salire le scale, di toccarne le pareti. Bisogna pagare per i mobili che non ci sono e infine vedersela con l'affitto assurdamente alto. Ognuna di queste somme da versare agli innumerevoli intermediari costituisce una piccola fortuna di migliaia di dollari di Hong Kong. Benché io non sia missionaria, mi è permesso abitare all'ostello religioso quale concessione al servizio medico di cui faccio parte. Il mio salario è pari a quello dei cinesi, essendo io cinese. Tuttavia il fatto di abitare all'ostello mi obbliga a un livello di vita europea, o quasi. Ne deriva che il denaro non basta per il vitto e l'alloggio per me e mia figlia, senza contare gli extra. D'altra parte, il mio stipendio non può essere aumentato, poiché già comprende la massima indennità di carovita cui io, quale vedova con un figlio a carico, abbia diritto. Dopo il secondo mese, infatti, Sono piena di debiti. Fortunatamente Mabel Chow e Lucy Kuo mi vengono in aiuto. Mabel, che lavora qui all'ostello, siede nell'atrio a leggere i giornali, propina informazioni approssimative sull'ubicazione di negozi e strade e fa da interprete ai missionari che non parlano il dialetto locale. Voi non parlate cinese, mi dice il giorno dopo il mio arrivo. Certo che lo parlo, rispondo abbassando lo sguardo sulla piccolissima Mabel che ha 6 figli e un settimo già piuttosto visibile sotto l'attillata veste alla cinese. Non parlo il dialetto cantonese perché vengo dal nord. Shanghai? No, Shanghai non è nord per me che sono di Pechino. Oh, per noi cantonesi tutto il nord è Shanghai, mi spiega. Qui il cantonese è considerato cinese e non parliamo i dialetti del nord, quindi voi non parlate cinese. Dopo queste spiegazioni diventiamo amiche e ben presto Mabel viene informata dei guai in cui mi trovo. Mi aiuta. Ho parlato di voi con Mrs. Comey, annuncia un giorno. Accetta di dividere la sua stanza con voi. È una vecchia amica dell'amministratore e pagherete soltanto metà retta. Ma Mrs. Comey non mi conosce nemmeno. Non vi conosce, ma le siete ugualmente simpatica. Quella stessa sera faccio la conoscenza di Lucy Kuo. È alta per una cantonese, leggermente curva, vedova con 2 figli a carico, insegnante. Abita all'ostello da anni. Suo marito, pastore protestante cinese, è stato ucciso dai giapponesi durante la guerra. Lucy Kuo è molto religiosa, ma non cerca mai di convertirmi. Abbiamo in comune la vedovanza, i figli e la scarsità di denaro. Voi e vostra figlia potete venire a stare nella mia camera con i miei 2 bambini e il cane Susie. Spero che non vi importi. Non me ne importa affatto, tanto più che Lucy ha effettivamente ottenuto che io paghi soltanto metà della retta, così risalgo di nuovo a galla. È una cosa della massima importanza per me, poiché tutto quello che possedevo se n'è andato per pagarci il viaggio dall'Inghilterra. Rimango quindi all'ostello per 4 mesi, fino al momento in cui mi trasferisco definitivamente all'ospedale. Intanto mi reco ogni giorno all'ospedale con l'autobus e torno alla sera a dormire nella camera di Lucy Kuo. Mia figlia Mei, di 9 anni, frequenta una scuola cinese e incomincia a imparare il cantonese. Non avrei mai supposto che esistessero tanti missionari quanti ebbi occasione di incontrarne durante quei 4 mesi, reduci dalla Cina. L'esodo lo chiamavano loro stessi scherzosamente, e a tutta l'aria di esserlo davvero.